Sarà particolare nel senso che lo sciopero femminista raddoppia, e raddoppia nel senso che noi ci siamo trovate quest'anno di fronte al fatto incontrovertibile che l'8 marzo è una domenica, e questo fatto ci ha posto di fronte a una serie di questioni che hanno suscitato una discussione anche, io credo, politicamente molto importante all'interno di Non Una di Meno. Lo sciopero femminista è qualcosa che in questi anni ha imposto di riconsiderare che cosa intendiamo per lavoro, cioè di non limitarci a pensare al lavoro salariato, al lavoro dipendente, al lavoro retribuito evidentemente, ma ci ha obbligato ad estendere il campo a quel lavoro che viene svolto quotidianamente per un monte ore immenso da milioni e milioni di donne nel mondo, che è il lavoro di cura, il lavoro domestico, il lavoro riproduttivo, che è un lavoro tendenzialmente non pagato, ma non soltanto evidentemente non pagato, e che è, come dire, non conosce cartellini, non si timbra e si interrompe, ma è una condizione particolare dentro la divisione sessuale del lavoro che estende la giornata lavorativa a 24 ore e indica una piena disponibilità del tempo e dell'esistenza, che in qualche modo è diventata anche una cifra del lavoro precario contemporaneo, e ha di per sé peraltro una dimensione inevitabilmente globale, perché se pensiamo quanto di questo lavoro oggi viene svolto anche da donne migranti e in cambio di salari da fame, capiamo appunto qual è lo scenario in cui ci troviamo davanti. Quindi per noi l'8 marzo come data è irrinunciabile, non soltanto perché ostinatamente noi vogliamo sottrarre questa scadenza alla ritualità, alla celebrazione con le mimose eccetera, e renderla evidentemente una giornata di lotta e di contestazione, di rivolta femminista globale, ma anche perché il fatto che sia di domenica ci permette di segnalare con ancora maggiore forza quello che vogliamo rendere visibile da anni e che abbiamo reso visibile proprio con lo sciopero femminista, ovvero tutte quelle attività e quei lavori che sono iscritti dentro logiche di subordinazione e sfruttamento, che continuano al di là degli orari canonici di lavoro, posto che anche questi sono evidentemente trasformati nell'era della precarietà dispiegata, che non conosce turni, che non conosce domeniche. Però contemporaneamente lo sciopero femminista ha significato anche trasformare il senso dello sciopero, riappropriarsi di un'arma di lotta che in questi anni, questa fase neoliberale, è stata completamente depotenziata, è stata trasformata solo ed esclusivamente in uno strumento di negoziazione con le imprese, privata del suo carattere di rottura, e noi lo sciopero lo vogliamo continuare a pensare come una scommessa aperta, che significa trasformarlo nuovamente in tempo di conflitto, in un momento di conflitto, è un tempo sì di conflitto, farlo arrivare dentro i luoghi di lavoro a partire non da istanze parziali, frammentate, il contratto eccetera, ma a partire da una battaglia politica globale come quella del rifiuto della violenza patriarcale, della violenza maschile di genere, che inevitabilmente entra anche nei posti di lavoro determinando le condizioni di milioni e milioni di persone. Quindi questo è il motivo che ci ha portato non a ridimensionare, ma al contrario a rilanciare in avanti e a raddoppiare la sfida, sapendo benissimo che lo sciopero femminista, noi l'abbiamo detto l'anno scorso, è la risposta, cioè il momento in cui si prende parola insieme, ci si fa vedere forti e assolutamente determinate a rifiutare una certa condizione di oppressione, però contemporaneamente lo sciopero femminista è sempre in trasformazione, ridefinizione, deve essere pensato dentro circostanze mutate come quelle che vediamo a livello globale, quello che succede in Sud America, quello che succede sul fronte della guerra combattuta dalle donne, dagli uomini curdi e così via. Noi ci rendiamo conto che lo sciopero deve ripensarsi continuamente dentro queste condizioni. Legandomi un po' a quello che dicevi anche prima, Non Una di Meno da tempo propone una forma particolare di reddito garantito. Sì, perché dal punto di vista femminista noi abbiamo cercato di portare alla luce, diciamo così, tutti gli elementi di dominio che continuano ad essere presenti all'interno del reddito, così come è stato fatto in quest'ultimo anno. E abbiamo fatto vedere che lì dentro c'è una coazione al lavoro, un obbligo, quello che è comunemente conosciamo come workforce, e che colpisce le donne in modo del tutto particolare, che contiene elementi razzisti, razzisti, e noi sono anni che diciamo che il razzismo istituzionale è uno dei canali di intensificazione della violenza maschile, della violenza patriarcale. Questo dal punto di vista critico. Dal punto di vista della rivendicazione, il problema è quello di affermare radicalmente un'istanza di autonomia. Abbiamo parlato di reddito di autodeterminazione perché sappiamo benissimo che, per esempio, per le donne che hanno subito violenza, che hanno deciso di non subirla più e che affrontano dei percorsi di fuoriuscita, di liberazione da condizioni opprimenti, la povertà, la dipendenza economica dai mariti o dai compagni o dal padre violento è una condizione che rende ancora più difficile liberarsi dalla violenza. Quindi il reddito di autodeterminazione nasce da una riflessione su questa istanza specifica per diventare un criterio di rivendicazione per l'appunto di autonomia, di rifiuto della coazione al lavoro e del modo in cui lo sfruttamento si alimenta tutti i giorni di forme di violenza sessuale, le molestie sul lavoro, forme di ricatto che continuano a vessare ogni singola lavoratrice, il razzismo che colpisce particolarmente le donne migranti e così via, e quindi diventa un'istanza politica complessiva per noi. Ricordo che domenica alle 16 a VAG ci sarà un'assemblea pubblica organizzata da Non Una di Meno Bologna, esattamente per lanciare e per organizzare insieme lo sciopero. Ricordo anche che insieme all'appello è uscita una lettera ai sindacati che in questi anni in parte hanno sostenuto, in parte hanno completamente ignorato o boicottato lo sciopero femminista, quindi questo è un altro pezzo della sfida che ci troviamo davanti. Invitiamo tutte e tutti a VAG domenica a 2 alle 16.